Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Federcooperative e assemblea regionale a Fagagna con il presidente nazionale Gardini. La crisi climatica tra i nodi di oggi. In Friuli Venezia Giulia oltre 110 realtà su 500 appartengono al settore agricolo. L'avvio dei saldi, notti bianche per incentivare gli acquisti anche fuori orario, il punto della situazione da Pordenone. Riforma della giustizia, il focus di Fratelli d'Italia a Lignano con il ministro Nordio. A Trieste la ministra alle disabilità Locatelli partecipa all'assemblea nazionale dell'ANFAS. La tutela della biodiversità e la formazione imprenditoriale in America Latina, i progetti della Friulana Oikos nel terzo settore. Sabato fitto di appuntamenti musicali, questa sera concerti di Lazza a Lignano e di Anna Villamanin a San Daniele, una giornata sotto il segno di folk est. Sport, ciclismo, prima giornata a Gorizia dei campionati italiani giovanili, a Monfalcone apre l'Accademia della Vela con una parata di campioni degli sport estremi. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In apertura i temi dell'economia e del lavoro. A Fagagna questa mattina l'assemblea regionale di Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia, che nell'occasione celebra il 50° di attività alla presenza del presidente nazionale Maurizio Gardini. Sul territorio regionale l'organizzazione conta 500 realtà associate, 150.000 soci e oltre 22.000 tra lavoratrici e lavoratori. Una giornata di festa, ma anche un'occasione per fare il punto della situazione. È l'assemblea regionale di Conf Cooperative che celebra con musica e premi ai ragazzi i 50 anni di attività. Presenti oltre 150 soci, tra cui il presidente nazionale Maurizio Gardini, ma anche rappresentanti delle istituzioni locali, a sfidare il caldo delle sale di Chiase Cocel a Fagagna. Un omaggio quindi al passato, con il ricordo delle radici della cooperazione in Friuli Venezia Giulia, dalle latterie turnarie agli essiccatoi di Bozzoli, ma anche un'analisi per il futuro, come ha sottolineato nel suo intervento il presidente di Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia, Daniele Castagnaviz. Non sfugge a nessuno di noi, ha ricordato, quello che stiamo vivendo è un momento storico con cambiamenti di portata straordinaria che solo pochi anni fa non potevamo prevedere. L'elenco dei problemi è lungo, dalla crisi innestata dalla pandemia, ora alle spalle, all'instabilità geopolitica con i suoi effetti nelle esportazioni e nella produzione. A questi si aggiungono tendenze di lungo periodo come la crisi demografica, si sono persi oltre 33.000 giovani, che si traduce in mancanza di personale qualificato e di redi nell'attività, ma anche la crisi climatica, che per una realtà che conta nel settore agricolo ben 111 cooperative su 500 in totale, assume dimensioni fondamentali. Anche per questo, nel corso dell'incontro, è stato premiato il climatologo Filippo Giorgi dell'ICPT di Trieste e premio Nobel per la pace nel 2017. Con la sua Lectio Magistralis ha illustrato i contorni della sfida del cambiamento climatico che per il Friuli Venezia Giulia si traduce e spiega soprattutto nella gestione dell'acqua. Premiati anche alcuni giovani delle scuole della regione, vincitori del concorso lanciato dall'associazione per avvicinare i ragazzi al mondo delle cooperative, un'iniziativa, quella del premio sostenibilità, arrivata alla sua seconda edizione. Fagagna, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Confindustria Udine ha festeggiato 80 anni di vita con una celebrazione per ripercorrere la storia del sodalizio e rinforzare i legami tra i soci, e per l'occasione è arrivato l'annuncio di un appuntamento di livello europeo dedicato alla manifattura che si svolgerà in autunno a Trieste. Confindustria Udine celebra 80 anni di vita con una festa dell'associato pensata per rafforzare il senso di appartenenza tra le 840 imprese che ne fanno parte e premia 9 delle sue aziende fondatrici, un elenco che fa la storia dell'impresa friulana in tutti i settori, dalla siderurgia all'alimentare, da ABS a Toffolutti, da Mazzola a Nonino. Storia ripercorsa anche attraverso l'omaggio ai 12 industriali che hanno presieduto l'associazione udinese, da Camillo Malignani a Gianpietro Benedetti, protagonisti di una vicenda di collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo che, ha detto il presidente della regione Fedriga, ha permesso al Friuli Venezia Giulia di affrontare anche i momenti più complessi portando risultati straordinari. Una serata di festa dedicata a tutti gli associati per una realtà industriale che, secondo il presidente di Confindustria Udine, Luigi Nopozzo, adesso deve rafforzare l'autonomia industriale e tecnologica, colmare il divario sull'innovazione, puntare sull'intelligenza artificiale, sulla robotica e sulla digitalizzazione. Non possiamo più accontentarci di rincorrere, ha concluso Pozzo, dobbiamo continuare a guidare. E nel corso della festa arriva la notizia portata dal presidente di Confindustria Alto Adriatico adriatico Michelangelo Agrusti di un'assemblea pubblica a Trieste in autunno sullo stato di salute della manifattura in Europa con la presenza di tutte le organizzazioni datoriali del vecchio continente. Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi il via ai saldi estivi, ai quali sono legate le aspettative di un settore da tempo alle prese con problemi strutturali, dalla concorrenza delle vendite online alla rivitalizzazione dei centri storici. Stasera le notti bianche in quasi tutte le città per sollecitare gli acquisti anche fuori orario, per così dire. Siamo andati intanto a Pordenone, dove abbiamo raccolto la voce di Vera Innocente, presidente territoriale di Federmoda. Quali sono le aspettative rispetto a questi saldi? Le aspettative, diciamo, per i consumatori il saldo è ancora una tappa importante a cui noi commercianti ci crediamo molto e quindi è una buona partenza di un buon lavoro. Con quanto si parte con le riduzioni? Dunque, diciamo che partiamo con un 30% fino a un 50%. I saldi hanno ancora senso in questo momento con tutte le prevendite, i Black Friday, tutti gli sconti che ci sono? Ma assolutamente sì, perché ci sono proprio i clienti che aspettano proprio il periodo dei saldi per fare gli acquisti, assolutamente sì. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla politica, un incontro in più sessioni per fare il bilancio di più di 2 anni e mezzo di governo Meloni è stato organizzato da Fratelli d'Italia a Legnano Sabbiadoro, alla presenza anche del ministro della giustizia Carlo Nordio. Il servizio. Addirittura d'arrivo la separazione delle carriere e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Abbiamo abolito l'odioso reato di abuso d'ufficio e la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Stiamo aumentando gli organici della Polizia Penitenziaria e colmando quelli della magistratura. La riforma della giustizia al centro del confronto organizzato da Fratelli d'Italia a Lignano Sabbiadoro, un iter costituzionale che potrebbe concludersi, auspica il ministro Carlo Nordio, per la prossima primavera con un referendum confermativo. Resta invece ancora molto da fare contro il sovraffollamento delle carceri. 3 le direzioni in cui procede il governo: far espiare la pena nei paesi di origine ai detenuti stranieri, una detenzione differenziata per i tossicodipendenti e la riforma della custodia cautelare. Sull'ondata di caldo che inasprisce le tensioni nelle carceri si fa il possibile, dice Nordio, dipende dai vari direttori penitenziari. Tra i bagnanti che si affacciano ad ascoltare si discute anche di turismo. In collegamento la ministra Daniela Santanchè si rallegra della crescita del Friuli Venezia Giulia, dove le presenze sono aumentate del 3,8% nei primi 5 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2024. Su un punto problematico, la difficoltà di trovare lavoratori stagionali, la ministra cita lo stanziamento del governo per lo staff housing, gli alloggi agevolati per gli addetti del turismo. Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera. Serve rendere di nuovo attrattivo un lavoro che è già di per sé attrattivo, che ha dei contratti fondamentalmente, che in alcune zone sono ancora da migliorare, questo è evidente, tant'è vero che esiste oggi la delega salari, quella che fu il mio emendamento alla Camera, che oggi è al voto al Senato per cercare di rinnovare ad esempio i contratti. Lignano Sabbiadoro, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli partecipa a Trieste ai lavori dell'Assemblea Nazionale dell'ANFAS. L'appuntamento affronta una serie di tematiche cruciali, dalla qualità della vita per le persone con disabilità al loro diritto a un lavoro. Vuole essere un riconoscimento al grande lavoro svolto finora e all'impegno nel senso dell'inclusione delle persone con disabilità dimostrati dalla comunità cittadina di Trieste, il congresso che l'ANFAS, l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo, ha organizzato per la prima volta nel capoluogo giuliano. 1 a 2 giorni, oggi e domani, per parlare delle varie progettualità dell'associazione a livello locale e nazionale e soprattutto per fare il punto sulla sperimentazione della legge 62/2024 che ha introdotto importanti novità in tema di inclusione delle disabilità, superando la visione puramente medica della questione e concentrandosi sui limiti ambientali che limitano la partecipazione sociale. Su questo interverrà a breve la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, ospite d'onore del congresso, sul palco assieme al presidente nazionale di ANFAS Roberto Speziale, presente tra gli altri anche il consigliere regionale Carlo Grilli, lista Fedriga presidente, da sempre impegnato anche per ragioni familiari nella promozione istituzionale, sociale e politica delle disabilità. Proprio a lui e in riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, prima come assessore del Comune di Trieste e poi dagli scranni dell'aula consiliare di Piazza Oberdan, sarà assegnata un'onorificenza dell'ANFAS nel corso della cena sociale in programma questa sera nella sede della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione in salita Monte Gabriele. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di una realtà friulana del terzo settore, la OECOS, attiva anche in Colombia con più progetti che spaziano dalla tutela della biodiversità fino alla formazione imprenditoriale. Tutela dell'ecosistema, turismo per la pace e giustizia sociale. Tre linee di azione per altrettanti progetti in Colombia della cooperativa OECOS di Udine in visita per monitorarne l'andamento. Madre Cocia, cofinanziato con 30.000 euro dalla regione Friuli Venezia Giulia, offre formazione per la comunità indigena per tutelare una laguna andina riconosciuta come organismo vivente e titolare di diritti. Sempre nel dipartimento del Nariño, al confine con l'Ecuador, con un bando da 1.700.000 euro dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, si lavora sugli accordi tra municipi, comunità indigene e campesine, obiettivo l'abbandono delle piantagioni di coca e delle armi che queste portano con sé. Il conflitto interno in Colombia ha fatto più di 9 milioni di morti. In una città del Nariño si contendono ancora il territorio 5 gruppi armati. Nelle aree pacificate, OECOS sviluppa progetti di turismo sostenibile lungo antichi cammini incaici. Giovanni Tonutti, presidente di OECOS. Può portare poi in una zona che ha sofferto da 60 anni un conflitto tremendo, oltre che delle alternative di reddito, può portare veramente alla costruzione di ponti fra comunità. Nel porto di Buenaventura, infine, saranno creati un centro di accoglienza per sfollati e migranti venezuelani, percorsi di formazione politica e di avvio all'impresa per giovani e donne. Prima ancora di iniziare a occuparsi nel 2015 di accoglienza in Friuli Venezia Giulia, OECOS nasce 10 anni prima per questo tipo di progetti. Forse il sud del mondo sta arrivando alle nostre porte e quindi per noi l'accoglienza e la cooperazione sono sempre state due facce della stessa medaglia, che è la medaglia della cooperazione della solidarietà internazionale. Per centrare gli obiettivi internazionali, entro il 2030 l'Italia dovrebbe dedicare lo 0,7% del PIL alla cooperazione e allo sviluppo. Oggi siamo sullo 0,3%. L'importante è non avere grandi ambizioni, ma cercare di realizzare progetti specifici per sostenere comunità particolari con obiettivi ben ponderati e possibilmente rendicontabili e misurabili. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. 12.43, passiamo al meteo. Il cielo è sereno, variabile su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 29 gradi, il mare è poco mosso, ha una temperatura di 21 gradi e mezzo, a Gorizia 30 gradi, Udine 29, Pordenone 28 gradi e 5 decimi, Naramontana, Tolmezzo 26, Forni di Sopra 22 gradi e 5 decimi, Tarvisio 21 gradi e mezzo, Piancavallo e Sappada 21 gradi in quota, sul Monte Zoncolan 15 gradi, sul Monte Lussari quindi 12 gradi e mezzo. Sulla costa Lignano 27 gradi e mezzo con temperatura del mare di 29 gradi, a Grado 29 gradi e mezzo con temperatura del mare di 27 gradi. Secondo l'ARPA nel pomeriggio avremo cielo poco nuvoloso e caldo su pianura e costa con venti di brezza, variabile sui monti dove sarà possibile qualche rovescio temporale sparso, specie nelle zone interne della Carnia e al confine con il Cadore, possibili ma con bassa probabilità anche sulle altre zone. La pagina degli spettacoli, chiusura in bellezza con l'attore produttore Pierfrancesco Favino per Shorts, rassegna triestina dedicata al cinema breve, organizzata dall'associazione Mare Metraggio, che dallo scorso 28 giugno ha proiettato 132 opere da 45 paesi, suddivise in 7 sezioni competitive, oltre e fuori concorso. Favino riceverà alle 19 il premio Interprete del Presente al Teatro Miela, dove sarà anche protagonista di una masterclass. L'evento sarà preceduto da una passeggiata cinematografica alla scoperta dei luoghi cittadini trasformati in vie di New York per le sceneggiature dell'ultimo film del regista premio Oscar Gabriele Salvatore. Angeles. Le premiazioni del festival sono in programma alle 21 al Giardino Pubblico, a seguire le 6 proiezioni del Focus Libano che chiuderanno la rassegna. E ora la musica parte da Lignano, il tour estivo di uno dei nomi più attesi di questa stagione live, Lazza. Cerco me stesso però non mi trovo, ero l'ultimo della classe, il primo in corridoio, vorrei sapere solo che effetto ti fa quando mi guardi dentro. Dopo il pieno nei palazzetti, il rapper milanese pronto alla consacrazione degli stadi, a cominciare da quello di casa, San Siro, al quale approderà mercoledì per un passaggio probabilmente cruciale della sua carriera. E questa sera l'atmosfera allo stadio Tegel dirà quanto sia ulteriormente cresciuto questo campione dello streaming, che si avvale di una band molto affiatata per questo locura tour. Il concerto è alle 21, così come quello di Anna, che sarà di scena a Villa Manin, un'altra star dei giovanissimi. Altri concerti di oggi, Folkest anima tutta la giornata di San Daniele del Friuli con numerosi appuntamenti che sono già cominciati questa mattina e proseguiranno fino al concerto di questa sera in piazza Vittorio Emanuele, protagonista il polistrumentista Joachim Kuder alle 20.45. Si apre a Flumignano di Talmassons la 25esima edizione della rassegna Musica in Villa, che proseguirà fino al 13 settembre a Villa Mangilli, concerto inaugurale con Sebastiano Zorza alla fisarmonica e il quartetto Meti, che accompagneranno il pubblico dalla primavera portegna di Piazzolla alla primavera di Vivaldi. A Gorizia in Duomo alle 20.30 il Piccolo Opera Festival propone un concerto di musica sacra con Go Borderless Orchestra and Choir, un omaggio alle teste coronate degli Asburgo con partiture di Haydn, Mozart e Salieri, loro dedicate. Siamo allo sport ciclismo, la nostra regione torna al centro dell'attenzione nazionale con i campionati italiani giovanili che si disputano a Gorizia tra oggi e domani. È in corso la seconda prova femminile, quella riservata alle esordienti secondo anno, domani toccherà invece ai maschi, in gara ci sono i migliori talenti del pedale azzurro. Gorizia, capitale italiana del ciclismo. Dopo la spettacolare gara degli uomini elite di domenica scorsa, vinta da Filippo Conca, è il turno delle categorie giovanili inferiori, esordienti e allievi, ragazze e ragazzi dai 13 ai 16 anni. 6 le gare in programma con un obiettivo comune, conquistare la maglia tricolore. La prima vittoria è andata ad Aurora Cerami del Comitato Regionale del Piemonte, giunta al traguardo in solitaria. Partenza e arrivo al Palabigò di Piedimonte, il percorso si snoda poi lungo Lucinico, Mossa e la fascia collinare del Collio. Le distanze variano dai 35 agli 80 km a seconda delle categorie. Sono 900 i giovani ciclisti arrivati a Gorizia nei dintorni per il fine settimana, accompagnati da oltre 2000 tra allenatori, accompagnatori e genitori. Il settore giovanile del ciclismo italiano gode ancora di ottimi numeri, soprattutto nelle categorie di base. Si stimano tra i 30.000 e i 40.000 tesserati su un totale di 100.000 iscritti alla Federazione Ciclistica Italiana. A organizzare l'evento è la società Libertas Cereseto, con il supporto di Cellina Bike. Le gare vengono poi trasmesse sul digitale terrestre e in streaming in serata tra Piazza del Municipio e Piazza Vittoria Gorizia, e in programma la sfilata di tutti i comitati regionali partecipanti. Gorizia, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Marina Monfalcone si inaugura tra poco alle 13 la Red Bull Sailing Academy, in una giornata dedicata anche agli sport estremi. Uno degli ospiti più attesi è l'estone Jan Rose, campione di slackline e recente protagonista dell'attraversamento dello stretto di Messina su una fettuccia tesa per più di 3,5 km. Rose si esibirà alle 17.30 e alle 19, ma fino a mezzanotte, con accesso libero a tutti, ci sarà la possibilità di vedere all'opera i tuffatori dalle grandi altezze, i campioni della BMX come l'austriaco Senad Grosic e il croato Marin Rantes, i grandi interpreti dello sci nautico e dello wakeboard e naturalmente alcuni grandi campioni di vela come Jimmy Spittil e Ruggero Tita. Altri appuntamenti sportivi di oggi: a Lignano Sabbiadoro si svolge il campionato regionale di skateboard, specialità street, inizia alle 17 allo skate park. A Casarsa 700 atleti partecipano ai campionati italiani Libertas di atletica leggera, alle 14.30 la sfilata degli atleti, poi il via alle gare al campo comunale. A Trieste il Bagno Ausonio ospita il torneo Tutti Pazzi per la Pallanuoto, riservato a non tesserati, organizzati dalla Pallanuoto Trieste. In lizza 9 squadre, tra cui Trieste, Maniago e Udine, inizio alle 13, finale prevista alle 18.40. Ancora qualche appuntamento di oggi: a Lignano e la vigilia dell'Air Show con le frecce tricolori, nel pomeriggio sono in programma le prove ufficiali. Tornano le rassegne Un calice a teatro e Le notti del vino, organizzate dalle Città del Vino. Alle degustazioni si accompagnano spettacoli e vari eventi. Stasera a San Giorgio della Richinvelda, alla Cantina Magredi, a Codroipo, al Museo delle Carrozze, a Strassoldo di Cervignano, nel Borgo Storico. A Udine prosegue la rassegna Vento d'Estate, organizzata dal Circolo Arci. Tra l'iniziativa al Parco Martiri delle Foibe, alle 18, la festa finale della Scuola d'Italiano curata da ospiti in arrivo, e alle 20.30 il concerto dei Blue Cash. Domani è in programma l'immancabile appuntamento con Vita nei Campi, la nostra rubrica radiofonica in onda subito dopo la prima edizione del giornale radio regionale, con anticipazione dei temi in scaletta. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani fa il punto sulla stagione irrigua già condizionata dal gran caldo con il consorzio Bonifica Pianura Friulana. A seguire l'estate nel frutteto, immersione nei profumi antichi di meli, peri, susini e peschi. Gli effetti dello sfalcio sulla composizione floristica di prati, vigneti, ma anche del giardino di casa. E ancora dai colli orientali il Savorgnano Bianco, novità sulla carta dei vini del Friuli. Nella rubrica delle conserve, un antipasto di zucchine in salamoia, il colore acceso del capsicum ornamentale, peperoncino decorativo. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. È stata battezzata Dona la Spesa l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 in regione, dedicata ad animali abbandonati in difficoltà, che prevede in 220 negozi della rete la raccolta di prodotti come scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori. All'ingresso dei punti vendita i soci volontari distribuiranno le borse per la raccolta con un volantino illustrativo. Lo scorso anno sono state raccolte oltre 60 tonnellate di merci per gli animali, poi distribuite a oltre 180 associazioni. È tutto per questa edizione che vi è stata proposta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Sono le 12.52 minuti, la prossima edizione oggi, che è sabato, andrà in onda alle 14.30. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.